Il Festival della Partecipazione è una 3 giorni che vuole essere un laboratorio aperto a tutte cittadine e cittadini di dialogo, dibattito e approfondimento su quello che è il tema appunto della partecipazione, che per noi è cruciale. Partecipazione intesa come attivismo civico, ma anche partecipazione alle decisioni di tutte le politiche pubbliche e quindi la vita pubblica in generale. Tra l'altro abbiamo visto che in questo particolare periodo storico la cittadinanza attiva, il mutualismo, l'attivismo dal basso sono stati veri e propri protagonisti, seppur forse non tanto valorizzati anche nella comunicazione, ma sono stati i veri protagonisti che hanno in qualche modo retto anche tutto il nostro welfare e il sistema sociale laddove lo Stato forse non è riuscito ad arrivare. E infatti proprio il claim di questa edizione parla di società del rischio, no? Se viviamo in un'epoca abbastanza particolare. Esatto, sì, la società del rischio è quella che sicuramente è emersa con una potenza inaudita con l'emergere della pandemia, ma la pandemia non ha fatto altro che appunto far emergere delle dinamiche che erano già sottese nella nostra società, come le disuguaglianze, come la difficoltà a far ascoltare i bisogni di tante fasce della popolazione e quindi quanto spesso appunto la partecipazione dal basso riesca a coprire queste lacune, se vogliamo anche. 3 giorni di incontri molto densi tra incontri in presenza e ibridi e incontri online, quali sono i principali temi che verranno discussi? Raffronteremo appunto la tematica della partecipazione sotto 3 grandi filoni, ovvero vogliamo riprenderci il potere di raccontare come veramente sono andate le cose e quali sono gli impatti della pandemia, ridefinire, quindi prenderci anche la responsabilità di ridefinire che cos'è la partecipazione e il diritto di concorrere a indicare una nuova strada. Diciamo i temi che affronteremo sono quelli che più stanno a cuore a tutte le associazioni partner, quindi la crisi climatica, abbiamo infatti Lega Ambiente, la scuola, i malati ordinari, la partecipazione e il ruolo delle donne, sicuramente anche un focus su quella che è anche tutta la qualità della democrazia in tempi di emergenza e di crisi come quelli che stiamo vivendo adesso. L'incontro conclusivo si occuperà proprio del recovery plan, un tema che si discute molto, queste risorse in arrivo dall'Europa che però fa la differenza come spenderle. Fa la differenza come spenderle e fa la differenza soprattutto se sono soldi che arrivano dall'alto o se nella programmazione della spesa viene coinvolta o meno la cittadinanza. Questo per noi è un punto fondamentale, è appunto un'azione che vogliamo lanciare alla fine di questo festival è proprio quella sul monitoraggio, sulla trasparenza e sul fare in modo che il processo e poi la spesa di questi fondi siano accountable, quindi trasparenti, e appunto la spesa che sia anche partecipata nella definizione anche di quelli che poi sono gli ambiti di spesa, appunto quelle che per noi sono delle priorità. Prima ho parlato di partecipazione come metodo e anche nel metodo di composizione, diciamo, dei relatori dei singoli appuntamenti. Sì, esatto, abbiamo cercato di garantire per ogni evento la partecipazione delle voci dal basso, quindi attivismo dal basso, mobilitazione civica, la voce anche di accademici, ricercatori, istituzioni diciamo della cultura italiana e di avere sempre una presenza anche istituzionale, proprio con l'idea che il festival è anche un luogo attraverso cui portare avanti delle richieste di cambiamento politiche, quindi appunto da indirizzare all'orecchio degli attori politici e istituzionali. Ci sarà spazio anche per spettacoli, non solo per dibattiti, che cosa prevede? Allora, il sabato abbiamo al Laboratorio San Filippo Neri, abbiamo uno spettacolo di e con Ottavia Piccolo che si chiama Donna non rieducabile, sugli scritti di Anna Politkovskaja. Invece venerdì al nostro evento di inaugurazione in Piazza Coperta ci sarà il duo dei Tlon, ovvero Maura Gangitano e Andrea Colamedici, e in chiusura avremo uno spazio di musica e teatro con gli Oblivion. Infine domenica pomeriggio l'evento di chiusura, che appunto prima dicevamo è Follow the Money, sul Recovery Plan, avremo una copertina artistica di Claudia De Lillo, anche conosciuta come Elasti, e una chiusura musicale di Frankie High Energy. Infine c'è anche una mostra fotografica selezionata esclusivamente per il festival da Cortona on the Move, è una mostra fotografica di Colin Dutton e rientra proprio nel progetto che Cortona on the Move ha dedicato alla pandemia, che si chiama The COVID-19 Visual Project, ed è una mostra che non è stata messa in mostra al festival di Cortona che si è svolto il mese scorso, ma è appunto un'esclusiva per il festival della partecipazione. Nella Piazza Coperta Umberto Eco è online. Dove trovare tutto il programma? www.festivaldellapartecipazione.org. Quest'anno il festival è in una modalità ibrida, quindi tutti gli eventi possono essere diciamo seguiti online sia sul nostro sito che sulla nostra pagina Facebook, appunto Festival della Partecipazione, e ci sarà anche qualcosa dal vivo qui a Bologna in Biblioteca Sala Borsa, all'Auditorium Enzo Biagi e in Piazza Coperta Umberto Eco.